Dovete elevare al quadrato la velocità della luce prima di moltiplicarla per la massa. Per farlo, utilizzate le proprietà delle potenze. Prima trovate il quadrato di 3, poi il quadrato di 10 alla ottava.